è un esperimento di democrazia diretta o quantomeno di consultazione popolare a livello europeo. Centinaia di cittadini e cittadine europee estratti a sorte su base demografica all'idea di creare uno spaccato della società europea e chiamati a discutere per mesi con incontri online, incontri in presenza, grazie a dei formatori, dei facilitatori, dei grandi temi del futuro, ambiente, lavoro, economia, salute, insomma un po' tutte quelle cose che riempiono i quotidiani e i TG ogni giorno. Hanno lavorato da settembre ad oggi, sono usciti con un corposo documento di 49 proposte, a loro volta articolate in tante sottomisure, e ieri sono state consegnate ufficialmente alle massime cariche europee, quindi Ursula von der Leyen, Roberta Metsola ed Emmanuel Macron. In particolare queste 49 proposte su che temi vertono? Ma guarda, all'interno c'è veramente di tutto. Va fatta una premessa: nell'insieme le proposte sono abbastanza vaghe, alcuni punti sono sviluppati nel dettaglio, altri sono abbozzati, sono delle linee di indirizzo e a volte si sottolineano, no, alcuni argomenti su cui si chiede all'Unione di lavorare senza predicare esattamente che cosa fare. L'orientamento generale è tendenzialmente progressista, abbastanza moderato, non ci sono richieste rivoluzionarie all'interno, non c'è niente di game changing. Alcune note interessanti anche, mettiamola così, a sinistra, almeno per gli standard italiani: si parla di salario minimo, si parla di stop ai tirocini non retribuiti, si parla di forte contrattazione sindacale collettiva, ma il punto su cui veramente ci sono delle proposte concrete, delle policy che si possono poi attuare, policy dettagliate, e l'integrazione europea. E quindi più in generale anche gli strumenti di partecipazione democratica. Esattamente, in queste 49 proposte si chiede ad esempio l'istituzione di referendum europei su determinati temi, si chiede l'elezione diretta del Presidente al Parlamento europeo, adesso invece un'elezione di secondo livello, si chiedono liste transnazionali, cioè non più votare in Italia partiti italiani al Parlamento europeo, ma votare partiti europei, appunto trovarsi direttamente nella scheda, si chiedono soprattutto molti più poteri al Parlamento europeo, che ora come ora ne ha pochini, è il superamento della famosa unanimità. Ora in Europa per decidere bisogna essere tutti d'accordo, questa consultazione dei cittadini dice no, facciamo che basta la maggioranza qualificata. Immagino che qualche riferimento sia al gruppo di Visegrad che ad esempio sui migranti ha posto molti limiti negli ultimi anni. Beh, ben più di qualche riferimento, tant'è vero che poi durante l'evento sia Emmanuel Macron sia Ursula von der Leyen hanno abbracciato questa parte delle richieste, le richieste sull'integrazione europea, e si sono detti pronti a cambiare i trattati. Macron addirittura ha detto facciamo una convenzione, una sorta di costituente europea che riscrive i trattati, una proposta che c'è già in Parlamento, ma lui insomma per la prima volta gli ha dato l'endorsement, e non è una notizia da poco. Siamo in uno scenario di una guerra alle porte dell'Europa, questo tema è emerso? È emerso moltissimo, è emerso nel documento delle 49 proposte, ma è emerso soprattutto durante l'evento. Tutti i politici che hanno parlato hanno evidenziato lo scontro fra le due giornate del 9 maggio. Da noi in Italia 9 maggio significa Pippino Impastato e Aldo Moro, ma nel resto del mondo si è consumata la contrapposizione tra la giornata della vittoria russa, quando i russi celebrano la vittoria sul nazifascismo, e invece il giorno dell'Europa, appunto, nel resto, in Unione Europea. E questo evento è molto risuonato durante la conferenza. Tantissimi leader, Macron, Ursula von der Leyen, Metsola, hanno detto a Mosca sfilano i carri armati, da noi invece sfilano i giovani, sfilano i cittadini. A proposito di integrazione europea e di guerra, se parliamo di questi due temi, spesso si parla di un esercito europeo, ma c'è poi anche il tema di un'Europa politica che dovrebbe prendere una posizione comune. In Italia ieri lo ha ribadito il segretario del Partito Democratico Letta. Che idea ti sei fatto? L'Europa sui temi appunto militari, sul tema della guerra, che orientamenti ha? Beh, sicuramente sul tema della difesa comune a livello di un esercito unico c'è grande prudenza. Questa parola ieri nessuno ha avuto il coraggio di pronunciarla e non l'hanno pronunciata nemmeno i cittadini, non c'è questa richiesta esplicita nelle 49 proposte indirizzate agli organi europei. Sicuramente però di forte cooperazione in ambito di esteri si è parlato molto. L'esempio che tutti hanno portato come positivo è quello delle sanzioni, su cui faticosamente, diciamo, si è trovato un accordo. Dopodiché anche ieri non sono mancate le differenze. I discorsi di Ursula von der Leyen e Roberta Metsola sono stati, diciamo, un po' più bellicisti, un po' più duri nei confronti della Russia. Emmanuel Macron in questo si è distinto, ha detto la Russia è uno stato invasore che noi condanniamo, sosteniamo l'Ucraina, ma attenzione, non dobbiamo umiliare la Russia, non siamo in guerra contro la Russia, al tavolo delle trattative dovremo sederci con la Russia. Insomma, una differenza di tono importante che segna anche le diverse velocità e i diversi pareri che tuttora esistono tra le cancellerie europee.